Buonasera. Buonasera. Buonasera, che meraviglia vedere qui tante persone questa sera, Mariano, a sentire parlare di mentalismo, di magia mentale. Beh, noi ce ne siamo occupati tante volte nei nostri percorsi, ma forse non tutti sanno che cos'è il mentalismo. Vogliamo provare a dare una spiegazione, una definizione. Qui siamo in un circolo di magia, quindi è chiaro che tante di voi sanno benissimo di cosa parliamo, ma ci sono anche ospiti, come si dice, profani, babbani, come dicono alcuni. Sì, quindi che cos'è esattamente il mentalismo e perché parlare di mentalismo in un luogo dove invece si parla di inganno, si parla di trucchi, carte nascoste nelle maniche, fili invisibili, botole nascoste. Cosa ha a che vedere il mentalismo, che apparentemente riguarda soltanto la mente, con invece il mondo ciarlatanesco degli illusionisti? Il segreto ben custodito da chi fa il mentalismo è che il mentalismo in realtà è una branca dell'illusionismo, ed è quella branca che, avendo smaterializzato la scena e avendo fatto a meno della valletta seminuda, del fazzoletto, della tovaglia tutta decorata strana, apparentemente utilizza soltanto la mente per trasmettere pensieri, prevedere il futuro, leggere all'interno di un libro chiuso, camminare lungo una linea con una benda sugli occhi. È quella branca dell'illusionismo che simula le doti paranormali. Al di là del dibattito se il paranormale esiste o meno, c'è la possibilità di simularlo, e questo si chiama mentalismo. Quindi chi fa il mentalista o la mentalista, perché questa sera allargheremo l'orizzonte dell'immaginabile, del concepibile, parlando anche di mentaliste donna, simula i poteri della mente, e da una parte del pubblico quello che va in scena può essere scambiato per vero, per cui c'è una parte del pubblico che davanti a uno spettacolo ben fatto di mentalismo si convince di aver assistito in diretta a un fenomeno paranormale. Ed è un po' il lato affascinante e inquietante del mentalismo, perché le sue retoriche, i suoi discorsi, quello che mette in scena può essere scambiato per vero, e quindi questa stessa cosa può essere impiegata per scopi meno nobili, che non sono quelli dell'intrattenimento. Ed è il motivo anche per cui sei qui tu, perché tu da sempre ne hai fatto una professione, forse sei l'unico in Italia ad averlo fatto, e sono molto onorato che questa sera ci sia tu a presentare questo libro. Tu ti occupi proprio di quel confine sottile tra l'inganno a fini di intrattenimento, quelli invece a fini più diciamo così oscuri. Più oscuri, sì, perché la differenza tra l'artista, il mentalista che presenta il suo spettacolo, i suoi numeri come forma di intrattenimento, anche una forma di intrattenimento se vogliamo di alto livello, di grande qualità, che richiede delle doti non comuni, nel senso che il mentalismo, facendo a meno, come diceva Mariano, di tutti quegli orpelli, quegli attrezzi nei quali spesso si cela il vero e proprio trucco, ma deve fare leva unicamente sulla persona del mentalista, quindi sulla sua personalità. Se non è un grande attore, se non è un'attrice, se non è una persona che riesce a coinvolgere il pubblico e a renderlo in qualche modo partecipe di quello che sta facendo, beh, non funziona tanto. Infatti non sono tantissimi i nomi dei mentalisti e delle mentaliste che noi ci ricordiamo. In Italia facciamo fatica a dire chi sono stati o chi sono i mentalisti più conosciuti. Viene in mente Giucas Casella, se vogliamo, che però non si presentava come mentalista, o meglio, magari tra i prestigiatori chi lo incontrava sapeva benissimo che cosa faceva, ma non si presentava così. Negli Stati Uniti è venuto qui tante volte, anche al circolo, Max Maven, che è un personaggio, non so se c'è un manifesto che lo raffigura, molto caratteristico, ha una pettinatura fatta proprio tipo Mickey Mouse con la punta nera qua. In realtà è una pettinatura che richiama una figura della fiction, no? Dal mago Merlino al nemico di Flash Gordon, e quindi lo vedi che è un personaggio che ha un carisma eccezionale, ma è un attore, lo vedi che non è una persona. Mentre dicevamo appunto questo confine, ci sono altri personaggi, e viene in mente Uri Geller, per esempio, che non si presentava come mentalista tuttora, ma quello che fa rientra benissimo tra le abilità del mentalismo. E però quella è stata la sua grande forza, le ha permesso di ottenere un grande consenso proprio non presentandosi come un personaggio mefistoferico, ma anzi come una persona comune, un ragazzo con la camicia, come tanti altri, e quello era proprio il suo punto di forza, perché riusciva a convincere. Comunque, detto questo, questa sera noi siamo qui a parlare delle, in particolare, mentaliste che ci sono state, perché questa è una cosa ancora meno conosciuta, se vogliamo. Grandi nomi del mentalismo, prima che arrivassero quelli magari a cui abbiamo accennato, o altri ancora fino all'Ottocento, inizio Novecento, erano donne le più brave, quelle che riuscivano davvero a stupire le folle, addirittura gli scienziati. Tu hai dedicato un libro che si chiama Incantagioni, vediamo qua, naturalmente dopo sarà disponibile per tutti, che racconta sei storie, l'hai diviso in sei capitoli. Sì, faccio un filo veloce. Quello su cosa da dove parte? Io 9 anni fa ho realizzato un documentario intitolato Donne a metà, in cui racconto l'origine dell'illusione da palcoscenico più famosa che ci sia nel mondo della magia, che è quello della donna segata in due. E facendo notare che non si è mai vista una donna che segue in due un uomo. C'è un aspetto legato al genere che è proprio specifico, preciso, e indagando sulle origini di questo numero si scopre che nasce in Inghilterra come reazione alla lotta delle suffragette per ottenere il diritto al voto. E c'è un legame strettissimo, perché l'inventore del numero della donna segata in due, appena queste donne portano avanti questa istanza, invita subito la loro leader perché venga in teatro a farsi segare in risposta, come dire, in realtà continuate a essere sotto il nostro controllo di maschi, che abbiamo il potere di dividervi in due e anche di comporvi, perché abbiamo potere di vita o di morte su di voi. Per cui avevo trovato affascinante questo collegamento e mi chiedo appunto se smetteremo di segare in due le donne quando accetteranno di non votare più, che potrebbe essere una possibilità. Una giusta... allora, questo documentario era un modo per fare una sorta di autocritica insieme ai miei colleghi maschi, in cui ci chiedevamo, mi chiedevo, ma davvero noi maschi non riusciamo a ipotizzare qualcosa di diverso da raccontare in scena che non sia torturare una donna e poi ricomporla e ricevere gli applausi con lei che si presta a questo in modo passivo? Perché per me è un discorso anche creativo, cioè in che modo si può andare oltre questo immaginario molto becero e limitato per fare qualcosa di diverso? La cosa che fanno le donne, che non aspettano che siamo noi maschi a cambiare le cose, in realtà alcune di loro piace ribaltare il tavolo e liberarsi da questo immaginario, e lo hanno fatto ancora prima che noi inventassimo questo numero. Per cui mi sono disposto nella prospettiva di cercare delle donne che avessero utilizzato la magia non tanto in questo modo come usato da noi, in qualche modo per confermare una gerarchia chiara tra i generi, ma donne che hanno utilizzato la magia, i trucchi dell'illusionismo, magari nella vita di tutti i giorni, per trovare uno spazio di emancipazione in un mondo fatto un po' su misura per noi maschi. E ne ho trovate addirittura sei, dove alla fine del Settecento l'Europa è scossa dalle teorie di questo medico tedesco che si chiama Franz Anton Mesmer. Oggi, quando si parla di restare mesmerizzati, stiamo tramandando il suo nome, Mesmer. Mesmer aveva ipotizzato che esistesse una sostanza chiamata magnetismo animale, un fluido di cui tutte noi e tutti noi siamo dotati, manipolando il quale si possono curare le malattie. Per cui lui inizialmente curava utilizzando le calamite, poi ha provato, una volta che non si era portato la calamita, a curare a mani nude, aveva visto che la cosa funzionava, non si era accorto che a curare era il suo carisma, la voce, il linguaggio, e infatti da lì poi è nata la psicoterapia moderna, perché poi lui ha messo per primo le mani nell'inconscio senza saperlo, ipotizzando invece una sostanza chiamata fluido magnetico. Sottoposte a questi trattamenti, molte persone, soprattutto donne, cadevano in uno strano stato mentale chiamato sonnambulismo, che ricorda il sonnambulismo di cui tanti soffriamo, quello in cui ti svegli nel cuore della notte in cucina senza sapere come ci sei arrivato, ma quello lì è il sonnambulismo spontaneo. Lui aveva scoperto che manipolando questo fluido magnetico, poi si è scoperto inesistente, queste persone cadevano in stato di sonnambulismo. Ma la cosa straordinaria è che nello stato di sonnambulismo apparentemente si apriva il terzo occhio, ovvero queste persone sembravano entrare in uno spazio in cui potevano leggere nel pensiero, prevedere il futuro, leggere nei libri chiusi, E che cosa succede? Nella storia europea, se tutte queste capacità che fino al giorno prima si attribuivano a un dono degli angeli, addirittura al diavolo, per cui attenzione a lavorare su queste cose, all'improvviso c'è l'impressione, la scienza si imbatte in questa ipotesi che con un meccanismo scientifico si può aprire il terzo occhio. L'eccitazione dura un secolo, per tutto l'Ottocento i medici studiano questa cosa perché lo stato di sonnambulismo è apparentemente qualcosa di straordinario che spalanca le possibilità al paranormale. Che cosa succede quindi che il trattamento medico fa così scalpore che la gente vuole vederlo? Ma no, come si fa a aprire al pubblico una clinica dove avvengono queste cure? Il trattamento medico lascia spazio all'intrattenimento quando qualcuno di questi medici dice beh, insomma, se voglio convincere la gente a venirsi a curare devo fare in teatro qualcosa che sfrutti questa cosa ma in maniera più spettacolare e alla mia sonnambula non chiederò di vedere il sesso del nascituro nella pancia o di trovare quel calcolo nella cistifelea col suo sguardo a raggi X. Facciamolo indovinare qualcosa che si possa verificare, una carta da gioco, leggere in un libro in modo che il pubblico abbia subito un riscontro. Fare la lettura del sesso del bambino costringeva il pubblico a aspettare 6 mesi, no? E quindi nasce, dal trattamento si passa all'intrattenimento. Il mentalismo nasce in quel momento. Sono dimostrazioni apparentemente scientifiche di questi poteri e quello che succede in scena è affascinante perché c'è un uomo, lui è il magnetizzatore che è in grado di mettere la donna in quello stato e quindi la donna in qualche modo, c'è una gerarchia, l'uomo può, la donna è sottomessa a questo, ma appena lei entra in quello stato si capovolge l'equilibrio dei poteri, perché lei inizia, aprendosi il terzo occhio, a vedere oltre quello che vede lui, e lui si trasforma nella sua valletta, e quindi è lui che deve scendere tra il pubblico a far scegliere le carte, è lui che deve spostare, e lei diventa la regina della scena e adombra l'uomo. Questo tipo di equilibrio affascinantissimo, io mi sono detto, è chiaro che ci sarà qualcuna che ne avrà approfittato, e ho scoperto 6 storie in cui 6 donne approfittano di questo momento magico che è finito, perché non c'è più praticamente nessuno spettacolo di sonnambulismo in tutta Europa, la parola vuol dire tutt'altro e si è dimenticato il suo significato, ma per un secolo è stato uno spazio di possibilità di capovolgere la dinamica dei poteri che è stato usato, perché 6 donne hanno fatto hacking di quello spazio per aprirsi delle possibilità, e le ho trovate, sono tutte storie vere quelle che racconto, ricostruite in 6 luoghi d'Europa che ho raggiunto per riportare alla luce queste storie. Beh, non a caso siamo a Torino naturalmente questa sera, il tuo viaggio parte da Torino con una di queste donne di cui abbiamo parlato, che si faceva chiamare la Sibilla Moderna, che appunto si esibiva a Torino, e tu nel tuo racconto, proprio aprendo e raccontando questa storia, parti da in realtà qualcosa che avviene nel XX secolo, cioè un film che è Profondo Rosso di Dario Argento, e che sapete, chi l'ha visto, insomma, si apre con questa scena al teatro Carignano, di una seduta spiritica, diciamo così. Come mai questa scelta? Ho trovato 2 coincidenze incredibili legate alla storia di questa donna. Era una Sibilla parigina che ha fatto un tour in tutta l'Europa per presentare i suoi spettacoli, che servivano come traino per le sue poi consulti, che invece riguardavano aspetti medici e come le cartomanti moderne, l'amore, questioni di lavoro, eccetera. Sulla Gazzetta Piemontese del novembre 1852 c'era questa, se la compravate, leggevate, quando arrivavate alla pagina degli annunci pubblicitari, nell'ultima pagina c'era il ritaglio: consulti di magnetismo della Sibilla Moderna, successo garantito, guarigione assicurata. Questo era, e c'era l'indirizzo dello studio, quindi oggi si può andare dove lei aveva lo studio, quindi io sono andato in via dell'Arcivescovado 7 e ho scoperto che 50 anni dopo Gramsci lì scriverà La città futura, il giornale in cui, tra l'altro, c'è quella frase, una delle frasi più famose di Gramsci: io odio gli indifferenti. Allora, che questa donna avesse scelto a Torino un luogo per vedere il futuro, che 50 anni dopo avrebbe, per sicuramente a sua insaputa, ispirato altre visioni di un futuro con il socialismo che aveva trionfato in Gramsci, a me ha dato un piccolo brivido, anche perché io sono convinto che non esista nessuna parentela tra le 2 storie, ma se la racconti, questa parentela si forma nelle menti di chi legge e quella connessione non la puoi più cacciare dal cervello, e trovare queste coincidenze è affascinante. Quello che ho trovato vedendo Profondo Rosso, che cosa succede in Profondo Rosso? Che c'è questa sensitiva che viene punita perché il film si apre con il suo omicidio, lei dimostra di poter vedere e in particolare vede l'assassino, e l'assassino, per proteggersi, aspetta che sia finita questa dimostrazione che avviene proprio al teatro Carignano, e poi si apposta, riesce a ucciderla, e questo è il è quello che dà inizio alla vicenda, che è l'ennesimo caso di donna che una volta che ha acquistato troppi poteri va sanzionata e quindi va eliminata. Una donna che chiude la sua carriera al Teatro Carignano. Dove ho già visto questa cosa? La Sibilla moderna presenta l'ultimo spettacolo della sua carriera l'11 maggio del 1853, che è una data che non dice nulla a tutti voi, ma a me sì, perché è il giorno del mio compleanno. Allora, il giorno del mio compleanno del 53, lei tronca la carriera e smette di lavorare. E per me, io avevo un cruccio. Che cosa mi sta dicendo? Perché anche lei lì al Carignano trova qualcosa oltre cui non può andare? E il primo mistero che mi sono posto è come si chiama la Sibilla moderna, perché è chiaro che non è nata con questo nome. E il semplice tentativo di scoprire il suo nome me ne fa trovare tre diversi, ognuno generato da motivi diversi. Quello di battesimo lo si scopre quando, come Vanna Marchi, finisce sotto processo, viene processata e condannata per frode, e lì allora sui giornali improvvisamente è importante dire come si chiama, nome e cognome preciso, così si sa quale famiglia infamare. Lei pagherà quello che c'è da pagare e poi tornerà a lavorare sempre in quell'ambito cambiando nome. E cambiando nome ovviamente in qualche modo ripulisce il suo nome e può ricominciare a lavorare. E che spettacolo fa lì? Ho trovato la locandina dello spettacolo che fa l'11 maggio 1853, fa ballare i tavolini. E la cosa straordinaria, perché poi uno per scoprire queste cose deve leggere i quotidiani, era un mercoledì quel giorno, la domenica, cioè 4 giorni prima, per la prima volta a Torino era arrivata notizia che in Germania un medico aveva fatto ballare un tavolo. La cosa interessante è che il tavolo non ballava perché gli spiriti dall'aldilà lo facevano muovere, ma per il magnetismo dei corpi, per cui mettendosi in catena intorno non si parlava ancora di contatti con l'aldilà, si parlava del magnetismo che si trasmette al tavolo e lo faceva ballare. L'idea che costoro, marito e moglie, abbiano letto il giornale, abbiano detto: che cosa facciamo in teatro? Oh, bella, proviamo. E per 3 giorni sconvolgono l'opinione pubblica torinese, per cui su tutte le recensioni si dirà: Torino è stata invasa dalla tavolinomania, perché in tutti i bar la gente fa ballare i tavoli, i cappelli, per questi due francesi che hanno portato questa novità. Allora, scoprire che lei è colei che ha portato, grazie alla lettura di un giornale che ho recuperato e ho trascritto, l'ho trovato super affascinante. Solo alcuni anni dopo sarebbe arrivata l'ipotesi spiritica, certo. E cioè, allora, chissà che quei suoni non dicano qualcosa e che questo qualcosa arrivi dall'aldilà. Dopo Torino, tutti i tour delle sonnambule approdavano a Milano, era proprio un percorso fisso, poi da Milano a volte si andava a Venezia, a volte a Bologna, ma è un classico, si arrivava a Torino, si faceva uno scalpore incredibile, i giornali recensivano gli spettacoli, arrivavano a Milano e a Milano invece, da dove arriva anche Massimo, questa polarità si è riprodotta sul palco perfettamente perché sono di Torino, a Milano arrivano i controlli scientifici, per cui i controlli scientifici arrivavano tutti a Milano e per sapere esattamente che cosa era successo a Torino bisogna leggere le relazioni scientifiche di Milano, come se Milano avesse una tradizione di scetticismo che oggi ha in te questo esponente. E tu stesso so che ti sei occupato del momento più tardo in cui entra l'ipotesi spiritica e a Milano alcuni scienziati iniziano a occuparsi di queste cose. Assolutamente. E effettivamente arriviamo alla fine dell'Ottocento qui, la seconda metà dell'Ottocento, insomma, quando nasce lo spiritismo, che nasce nel 1848 negli Stati Uniti, nel paesino di Hightsville con le sorelle Fox, e all'inizio semplicemente le vocazioni di spiriti che fanno dei colpi, dei raps, così li chiamano, sono questi rumori qui che loro producevano, scusami, con le dita dei piedi sul legno del parquet, dei muri, insomma, dei loro cottage, nascosti dalle grandi gonne, e che però sembravano rispondere alle domande con codici che poi si creavano ad arte sul momento. Solo dopo, quando forse anche qui dettato un po' dalla fatica, perché provate a immaginare stare una sera a decifrare uno che fa M per arrivare a un messaggio che dica buonasera, sono arrivato qui tra voi, passano un paio d'ore. Allora forse per, all'inizio ovviamente fa scalpore, ma poi forse per riuscire a coinvolgere in una maniera un po' più rapida i partecipanti, si trovano altri sistemi. Per esempio il medium diventa non più solo un evocatore di spiriti, ma anche un mezzo per cui gli spiriti possono dare comunicazione, ora per esempio nasce la scrittura automatica, oppure ci sono altri sistemi. I tavolini che ballano già appunto nella seconda metà dell'Ottocento si diffondono come uno strumento sia per la comunicazione, perché è il tavolino che balla e che dà i colpi, ma poi soprattutto il tavolino che si inclina, si muove e sembra prendere vita. Già Faraday, il chimico celeberrimo, si è occupato intorno al 1870 di tavolini che si muovevano e capisce che è una questione in realtà di movimenti muscolari involontari. Si accorge che le persone che partecipano non sono in malafede, non stanno facendo apposta, ma senza rendersene conto spingono o tirano il tavolo finché riescono a farlo, partecipando tutti quanti, a farlo roteare, a farlo inclinare, dondolare. Questo non ha niente a che vedere con quelli che invece i tavoli li fanno volare, no? A partire dalla medium Eusapia Palladino, che tra le medium Eusapia Palladino, tra l'altro, oggi pomeriggio siamo stati in un gruppo qui tra noi al Museo Cesare Lombroso. Cesare Lombroso è stato proprio uno degli scienziati che hanno voluto osservare e studiare le presunte facoltà medianiche di Eusapio Palladino. E c'è una famosissima seduta spiritica che si svolge proprio a Milano, dove partecipa Lombroso, dove partecipa Schiaparelli, che era l'astronomo più famoso d'Italia, era il direttore dell'osservatorio astronomico di Brera, tra l'altro è lo stesso Schiaparelli che avrebbe visto i canali di Marte con il suo telescopio, ovviamente un errore dovuto a quanto erano rozzi i telescopi, non c'era nessun canale su Marte, ma quella notizia, quando lui l'ha data, ha riempito i giornali di tutto il mondo. Allora Marte, metà, ci sono canali artificiali, coltivano chissà che cosa, dibattiti lunghissimi. Però appunto Schiaparelli partecipa insieme a Lombroso e ad altri a Milano, questa seduta spiritica con Eusapio Palladino, che convince molti di loro, compreso Lombroso, che poi diventerà lui stesso uno spiritista. Quindi questo rapporto anche tra la scienza, l'interesse della scienza nel verificare, nell'indagare il mondo dell'occulto, c'è già allora e c'era anche prima, come magari adesso Mariano ci racconterà. Ed è interessante vedere però come c'è anche la parte scettica, lo scetticismo. In questo caso, tra i partecipanti alla seduta c'era Torelli Violier, che era il direttore, l'inventore anzi, e poi il direttore del Corriere della Sera a Milano, ed era stato prima un garibaldino con Garibaldi tra i mille, e poi era stato l'assistente personale di Alexandre Dumas, lo scrittore moschettieri, e poi era diventato appunto il direttore del Corriere della Sera. E in questa veste si era insospettito vedendo la medium Eusapio Palladino, che faceva volare i tavoli, che li spostava a piacimento, che creava tanti fenomeni, e aveva capito il trucco base, diciamo, di Eusapia, che era quello, quando si sedevano le persone intorno, soprattutto chi doveva controllarle, lei formava una catena, sapete, no? La catena spiritica, in un modo molto particolare, cioè chiedeva alla persona che stava di fianco di prenderle il polso, lei a sua volta prendeva il polso di quello che le stava di fianco, e così via, tutti quanti, finché un altro prendeva il polso di Maria. E durante la seduta spiritica si abbassavano le luci, ovviamente, perché gli spiriti non si esibiscono mai quando c'è troppa luce, e nel buio la medium iniziava a muoversi, a agitarsi e a cadere in trance, e a un certo punto cosa succedeva? Che in questo movimento si staccava la mano dal braccio del vicino di qua, ma si riattaccava subito questa, e lei aveva una mano libera, e con questa mano libera faceva sollevare il tavolo, scompigliava i capelli di quello che gli stava di fianco, gli tirava la camicia, gli buttava le cose per aria, e quello era lo spirito che arrivava. E Torelli Boer lo spiega nel giornale, e quindi in qualche modo smaschera la medium. Ovviamente chi vuole credere continua a credere inevitabilmente, però ecco una dinamica questa qui, che noi vediamo da 800 fino a 800, che vediamo per tutto il 900 e con tantissimi casi, ma che vediamo già allora. Eh sì, è interessante che se noi confrontiamo gli esperimenti che negli anni 70 facevano su Uri Geller, l'hai citato prima, lui riteneva di essere dotato di un terzo occhio, non utilizzava il racconto del fluido magnetico perché è passato di moda, quindi se dovete presentare in pubblico numeri di terzo occhio, nessuno più vi... mentre nell'Ottocento vi avrebbero applaudito dicendo, oh, caspita, questa è una dimostrazione di chiaroveggenza magnetica. Quelle invece Geller parlava di percezioni extrasensoriali, e a Stanford avevano provato a mettere alla prova questi poteri, come funzionavano gli esperimenti. Gli scienziati facevano un disegno semplice, lo chiudevano in una busta, e lui, prendendo la busta e senza aprirla, proiettando la mente dentro, era in grado di leggere e indovinare il disegno, riproducendolo su un altro foglio. Questa stessa identica cosa aveva provato a farla Cesare Lombroso qui a Torino, facendo dei disegni, chiedendo alla persona di concentrarsi e di riprodurlo, e poi pubblicando esattamente come negli anni 70 il disegno originale, il target quindi, e il disegno realizzato dall'ipotetica medium. E io ho provato a stampare su due fogli distinti. A sinistra di ciascun foglio c'è il target, e a destra c'è la rappresentazione del sensitivo di cos'è, e io sono sicuro che in sala nessuno può dire qual è Lombroso e qual è Uri Geller, perché sono indistinguibili, eppure sono passati esattamente 70 anni dall'uno all'altro, uno è Torino, l'altro è Stati Uniti. Quello di Lombroso è questo, quindi una testa che andava riprodotta così è stata riprodotta così, un uccello è cos'ha, e questo strano albero a pino marittimo diventa invece un frate, quindi questo era un successo più o meno, e questi invece sono i disegni di che Uri Geller aveva provato a riprodurre. L'anno, come vedete, siamo nel 1904 da una parte e 1974. L'idea è sempre la stessa. E la cosa affascinante è che tu stesso sei stato coinvolto in TV nella riproposizione di questo fenomeno e hai ottenuto un successo molto simile senza... apparentemente rispettando tutte le condizioni, come appare vedendo queste immagini. Se davvero una persona fosse in grado di percepire un dromedario così bene da riprodurlo, gli manca solo la gobba, è quel margine di errore che funziona. Un ponte che da così diventa così, vabbè, insomma, ricorda più un arcobaleno, però ci sta, non è, guardate gli uccelli quanto sono simili. Perché il sospetto naturalmente che Geller, e prima di lui chi aveva lavorato con Lombroso, utilizzasse dei trucchi, e tu stesso eri riuscito a stupire Giuliano Ferrara. Qualcuno dice non è difficile, ma dipende. In questo caso l'obiettivo era quello di simulare i poteri paranormali tipo Uri Geller, per poi fare un piccolo esperimento di psicologia sociale. L'esperimento, sapete, era quello di vedere, verificare se uno dei numeri più famosi di Geller, che era chiamato addirittura l'effetto Geller, si sarebbe potuto replicare. Che cosa era? Era il fatto di creare fenomeni in casa dei telespettatori. Geller, quando andava in TV, diceva: portate vicino al teleschermo delle posate, degli orologi fermi, io cercherò di farli ripartire attraverso il televisore. E dopo le persone chiamavano dicendo effettivamente che erano successe tante cose di questo tipo. Allora, per verificare, io ho già fatto una cosa del genere negli Stati Uniti con Randy, che è stato il mio maestro, James Randy, alla radio, e aveva funzionato benissimo, non avevo neanche finito di parlare che già suonava il telefono e la gente voleva raccontare le cose incredibili che stavano succedendo in casa loro, e immaginavo che sarebbe accaduta la stessa cosa, poi altri psicologi avevano già fatto questa esperienza. E così è stato, sono andate avanti due ore anche dopo che abbiamo spiegato che era semplicemente un esperimento, che non avevo poteri paranormali, che erano trucchi quelli che avevo usato, niente, non tenevano a chiamare per raccontare, ma l'orologio era fermo, adesso è ripartito, grazie, mi ha aggiustato un orologio che sarebbe costato tantissimo, e avanti fin dopo la fine del programma, finché hanno chiuso il centralino. Ma la cosa tra gli effetti, chiamiamoli così, per usare un gergo dei prestigiatori, che ho dimostrato proprio per convincere chi ci stava guardando che avevo queste facoltà paranormali, era proprio un'altra dimostrazione, proprio questa, del riprodurre un disegno fatto di nascosto. Allora, la cosa semplice lì sarebbe stata mettersi d'accordo prima con Ferrara, tanto che io sapevo che era un prestigiatore che non avevo poteri paranormali, dirgli: guarda, disegna, che ne so, una casa e io poi la riproduco e sembra che ho indovinato. Ovviamente non mi piaceva l'idea di fare le cose così semplici, e quindi gli ho detto: no, lei farà un disegno di nascosto e io in diretta cercherò di riprodurlo. Ah, chissà se è possibile una cosa del genere, è impossibile. E proviamo. Allora, prenda della carta, prendo un foglio di carta e io conoscevo appunto i trucchi del mentalismo e immaginavo di usare qualcuno di quei trucchi. Per esempio, adesso vi dico delle cose che resteranno tra di noi naturalmente, per esempio se c'è un block notice, come gli avevo dato, un block notice, e una matita appuntita, e uno fa un disegno e poi strappa il foglio, lo piega, se lo porta via, come gli ho detto di fare a Ferrara, e lascia lì il block notice, resta magari l'impronta del disegno che ha fatto. Quindi dopo che è andato via, io potevo passare un'altra matita sopra e vedere il disegno che c'era. Oppure, un'altra tecnica ancora, lui faceva il suo disegno così di nascosto, ma la punta della matita spuntando mi avrebbe dato qualche indizio sui movimenti che faceva. Più difficile, ma insomma, era una possibilità. O magari potevo sperare che ci fosse uno specchio in zona e quindi lui facendo il suo disegno così di nascosto dietro aveva lo specchio e io, magari anche facendo finta di coprirmi gli occhi come faceva Geller, sbirciavo tra una dita e l'altra e vedevo cos'era il riflesso. Allora andiamo nella stanza, nel camerino, e non ci sono specchi in realtà perché non era proprio un camerino. Prende il blocco, anzi non prende il blocco, prende un foglio, lo stacca e poi si mette lì, fa un disegno, lo mette in tasca e dice: bene, io ho fatto. Dico: ha fatto? Ah, bene, ha fatto. E lì, come dire, le lezioni che ho acquisito da Randy proprio sono entrate in azione, perché lui mi ha sempre spiegato, mi ha raccontato e mi ha dimostrato come i migliori mentalisti, alla fine, quelli che poi come Uri Geller riescono a far credere di avere davvero delle facoltà autentiche, sono degli improvvisatori. Non è che hanno il sistema, il trucchetto che deve funzionare tutte le volte, le situazioni cambiano, le condizioni cambiano, bisogna essere pronti a improvvisare un sistema, e lui l'ha fatto in maniera clamorosa, vabbè, lo racconto in altre occasioni. Ma in questo caso mi viene in mente subito di dire: come l'ha fatto il disegno? Con la matita. Ah, sa cosa, mi è venuto in mente che davanti alla telecamera, poi quando fa vedere il disegno fatto a matita, magari non si vede. Sarebbe il caso, non so, se ci fosse un pennarello, di rifarlo. Ah, vabbè, sì, siamo col pennarello. Allora prende un altro foglio, lo fa col pennarello, prende il disegno che ha fatto prima, lo appallotta, lo butta via e se ne va. E quindi se ne va e io resto lì da solo, vado a dare un'occhiata e dico: c'era il rischio che facesse un altro disegno, che avesse fatto un altro disegno. Quando ho visto che cosa aveva buttato via, ero sicuro che avrebbe rifatto lo stesso identico disegno. Aveva fatto una falce o un martello. Quindi, poi andiamo in trasmissione e lui dice: beh, io ho fatto un disegno qui nella busta sigillata, l'ho tenuto in tasca, lei è sempre rimasto lontano, non so, prova a indovinare. Mi metto lì, cosa difficile, capisco, potrebbe essere, facendo tutta la scena, la commedia, finché alla fine riesco a disegnare, ma potrebbe essere un, sembra, non so, un martello, falce un martello, ma davvero, aspetti, apre, ecco, guardate, è veramente identico. Insomma, questo è uno dei sistemi che mi sono dovuto inventare sul momento, quello di costringerlo a rifarlo per qualche motivo, e sono stato ovviamente fortunato, ma funziona anche così tante volte, no? Lo stesso Uri Geller ha fatto delle cose che non potrà mai più rifare nella sua vita, perché le condizioni non si ripropongono mai allo stesso modo. E mi fai venire in mente che io, essendo cresciuto con questi racconti fatti da te, da Randy, mi sono detto: sono sicuro che questi personaggi di cui mi occupo nel quotidiano hanno dovuto aggiustarsi così in diverse situazioni, e ho trovato delle storie così altrettanto inverosimili che, se questo fosse un romanzo, un editor mi avrebbe detto: no, abbassa, perché ti devono leggere degli adulti che vogliono un minimo di verosimiglianza. Invece, essendo storie vere, posso raccontare delle cose inverosimili. Per esempio, la protagonista del secondo capitolo, la necromante, era una cuoca di Carignano che voleva arrivare a corte, voleva incontrare tu per tu il re Carlo Alberto. E quindi che cosa si era inventata? Era poverissima, non aveva nessun modo per colmare il divario sociale tra il re e una cuoca anonima. Era riuscita a scalare tutti i gradini per arrivare a corte, facendo apparire sua madrina. Era morta da qualche anno la madrina di Carlo Alberto, che era in odore di santità, era considerata una nobildonna piena di tutti i valori cristiani possibili, e lei era in grado di materializzarla davanti ai frati, davanti ai parroci, e tra le altre cose costei recuperava dal pollaio delle piume e le nascondeva nelle maniche, poi faceva così con l'aria, diceva di aver visto la colomba dello Spirito Santo, ne prendeva una ed è riuscita a regalare a Carlo Alberto la piuma dello Spirito Santo materializzata, e Carlo Alberto lo racconta nella sua biografia dicendo: io ho creduto a questa cosa, mi sono accorto poi col tempo che forse mi aveva fregato, ed era tale l'onta di essere stato ingannato da un anno. Poi soprattutto gli riporto testualmente come la definivano, nei modi peggiori, perché poi il fatto di essere povera, umile, eccetera, era un aggravante naturalmente. E la autobiografia di Carlo Alberto viene tolta dal commercio, sparisce, e tutti i volumi vengono bruciati perché non può girare questa notizia. E io riesco a ricostruire la sua storia grazie a due scrivani della corte che disobbediscono, trascrivono lunghi brani, li tramandano, e poi uno studioso di Torino li ha poi trascritti e pubblicati di recente, i diari segreti di Carlo Alberto, dove viene a galla questa storia. E lei poi in particolare riusciva a materializzare l'acqua santa, ed è difficile portarsi in giro dell'acqua in tasca, cioè immaginate la complicazione. Lei entrava in un ambiente, visto che all'epoca nelle fioriere c'era spesso un po' di acqua che esondava, lei entrava in una stanza, si pucciava subito una manica dell'abito infradiciandoselo, e poi nel buio faceva così col braccio, e la gente riceveva queste benedizioni dal cielo, e diceva: noi ogni tanto arrivavano queste, in sua presenza, questi segnali dell'aldilà. E la distanza tra il metodo improvvisato, chiaramente, perché una fioriera, pensare che possa diventare l'acqua benedetta che arriva dal cielo, ci voleva quell'inventiva che ti ha guidato ad andare a cercare nell'immondizia. Ma andare a cercare di mettere le mani nel cestino, e poi l'effetto mistico che si crea, sono distanze che io adoro isolare, trovare e celebrare. Per cui il libro è anche una raccolta di questi momenti, tutti femminili. Penso a Prudence Bernard, la protagonista del quinto capitolo, La Sonnambula, che qui vediamo ritratta a Torino, perché il primo spettacolo di mentalismo nel nostro paese, di cui ci sia rimasta non una fotografia ma un disegno, è questo. Qui è con il marito che la sta magnetizzando, lei ha le braccia aperte, e questa corona d'alloro non la troverete nel libro principale perché non c'era abbastanza spazio per stamparla. Ho realizzato un secondo volume con tutto il materiale documentario che ho usato per scrivere il primo, quindi basta il primo, ma chi ne vuole ancora ne ha un intero secondo su cui approfondire, tra cui queste tavole grosse dove vedere proprio l'espressione dei visi. Lei era straordinaria a essere sempre un passo avanti rispetto alla stampa, perché lei presentava in teatro qualcosa di inspiegabile, in sala c'era sempre qualcuno con l'occhio giusto che capiva il trucco, e il giorno dopo lo scriveva sul giornale rovinando la prossima data. E quindi lei il giorno dopo, quando il pubblico era pronto a, faccio un esempio, lei leggeva, giocava a carte bendata, come diamine faceva, a un certo punto si era capito che si metteva un po' di gocce d'olio sulle tempie che le facilitavano la caduta della benda, e che quindi, senza che il pubblico si accorgesse, riusciva a vedere attraverso la benda. Quando sul giornale esce questa notizia, guardate quanto è unta la sua faccia durante lo spettacolo. Il giorno dopo la sua faccia era secchissima, perché lei aveva letto il giornale, aveva capito che doveva alzare la posta, e si presentava dicendo: dicono che utilizzo l'olio, potete controllare che sono completamente asciutta, sostituendo la benda con una benda con una parte scorrevole che consentiva di vedere. Quando sui giornali esce quella notizia lì e tutti sono pronti a inchiodarla alle sue responsabilità, lei entra in scena con un sacchetto con della terra che si fa spalmare sugli occhi, si aspetta che secchi, e tiene una maschera d'argilla impenetrabile. E quindi questi che erano pronti, non è così. E c'è stata questa caccia a guardie ladri continua tra la scienza e i giornali alleati, che dicevano esplicitamente: queste francesi che arrivano dalla Francia e credono di prendere per il naso noi italiani. E che ogni volta veniva frustrata questa spiegazione, non perché fosse sbagliata, ma non era aggiornata ed era sempre un passo avanti. Secondo me il tocco di classe è che lei aveva capito questa cosa, che a un uomo non sarebbe mai funzionata. Non si mettono le mani addosso alle donne per perquisirle, quindi qualunque cosa avesse indossato sotto i suoi abiti, in particolare come abiti intimi, non sarebbe stata scoperta. E in quegli anni, se nell'ultima pagina dei giornali parigini vendevano questo busto magnetico del dottor Nicole, e lei aveva pensato: beh, se io indosso sotto i vestiti questo busto magnetico che viene venduto per la sciatica, per il mal di schiena, pseudoscienza che è poi sopravvissuta, perché oggi trovate un sacco di soluzioni magnetiche che servono solo ad attirare le graffette, non vi cura dalle malattie. E lei si era comprata il busto di Nicole, lo indossava sotto i suoi abiti e si avvicinava alle bussole e le deviava. E sui giornali ho trovato, non c'era spazio ovviamente qui per riprodurre tutte le relazioni scientifiche di scienziati meravigliati, perché alcuni restavano incantati e dicevano: siamo andati a vederla convinti che avremmo assistito a uno spettacolo di illusionismo, ma questa è veramente oltre. E in uno di questi articoli pubblicati a Milano, sono tre le relazioni scientifiche sul suo caso, quella più entusiasta dice: si avvicinava alla bussola e la deviava, ed era assolutamente, e non abbiamo potuto capire come si facesse, e lei aveva capito che il fatto di non essere perquisibile la rendeva, le consentiva di passare di lì. Scoprire in che modo costoro, in un mondo che non era fatto per loro, e che siano riuscite sempre a trovare una via di fuga per ingannare la scienza e in qualche modo costringere gli scettici dell'epoca ad aggiornarsi, è affascinante, come tutti i film delle truffe in cui non si sa bene per chi ti fare, no? Perché è chiaro che noi siamo per la giustizia, però il gruppo di truffatori è talmente che forse ti fa per loro. Pensiamo alla Casa di Carta, no? No? Tutta basata su questo meraviglioso film di Mamet. Nel tuo libro, questo libro in particolare, Incantagioni, arriva dopo un percorso che tu hai iniziato ormai da anni e che parte dalla figura di Mesmer per ricostruire qualcosa che nessuno ha mai fatto. Mariano è il primo al mondo, non mi risulta proprio che ci sia nessun altro, che vuole ricostruire la storia del mentalismo in Europa in particolare, partendo da Mesmer. Questo dopo due libri meravigliosi che, se non avete ancora letto, visto o preso, vi consiglio di prendere. È un po' il terzo capitolo, potremmo considerarlo così? Sì, non ha l'aspetto degli altri, perché è il primo che ha sollevato l'interesse di un editore comune, perché i primi erano il mio tentativo di dire: manca una storia del mentalismo non raccontata da un medico o da un psicoterapeuta o da uno studioso di storia o da un linguista che si occupa degli effetti del linguaggio sulla psiche, per cui Mesmer è di interesse per un sacco di diverse discipline. Manca un libro su Mesmer che racconti i trucchi e la storia del mesmerismo. Se uno conosce i trucchi del mestiere e riconosce come si fanno queste cose, con i trucchi appunto andando a cercare nel cestino, quando conosci questi trucchi leggi queste cose con un occhio unico. Vi faccio un esempio banale ma che vi fa capire. Nell'Ottocento c'era l'ipotesi che la magnetizzazione portasse a uno scombussolamento dei sensi, per cui il senso della vista non era più negli occhi ma era nell'ombelico, nel plesso solare, insomma in questa parte del corpo. Quindi queste sonnambule potevano essere bendate, ma una carta da gioco messa qui riuscivano a vederla con la pancia. Questa vista epigastrica diventa un oggetto di confronto tra di loro nei medici, e diversi libri di medicina si chiedono perché l'epigastro e non l'orecchio. Ed è bello, le ipotesi che fanno sono, per esempio, il nostro orecchio è pelle, è un epidermide molto sottile all'interno, eccetera, ma vibrando riesce a tradurre le onde in onde sonore, in messaggi, quindi è possibile che la magnetizzazione trasformi l'epidermide della pancia in una cosa così sensibile come l'orecchio, per cui una carta da gioco appoggiata lì, essendo sensibile lo sbalzo, cioè cercavano delle spiegazioni, eccetera. Mentre noi illusionisti sappiamo benissimo che con una benda sugli occhi una carta messa qua non la vedremo mai, una carta tenuta qui forse è un po' più facile da vedere, perché virciare i lati del naso è il trucco che da metà Settecento è riportato in tutti i manuali di mentalismo, prima che il mentalismo si chiamasse così. Quindi se mi danno un libro da leggere lo devo tenere qui vicino all'epigastro, e quindi questa lettura epigastrica improvvisamente, quando a leggerlo è un prestigiatore, dice: ah, ok, certo che epigastrica, ci mancherebbe solo che fosse con i piedi, è chiaro che l'epigastro è l'unico posto del corpo. Questa carenza, mi sono detto, devo scrivere questa storia, ma nessun editore era pronto ad accettare questa proposta perché era così sulle nuvole, per cui io sono uscito con i primi due volumi. Quando poi hanno intercettato questi due volumi hanno detto: ok, ne hai un terzo in preparazione? Io ho detto: sì, il taglio è un po' diverso, perché il taglio sarà completamente al femminile. Io voglio raccontare la storia del mentalismo dell'Ottocento facendo vedere come è stato in mano sostanzialmente alle donne. E devo dire che, come notizia, l'editore ha detto: davvero? Sul serio, tu sei in grado di andare avanti per 300 pagine? Ed è quello che poi ho fatto. E quindi è il primo libro di mentalismo aperto al grande pubblico, perché diciamo il racconto che se ne fa fa capire in che modo questa cosa sia stata interessante su più piani, e al contempo la storia di come il mentalismo è arrivato in Italia, perché racconto come Torino sia stata la porta che della Francia ha portato poi in tutta l'Italia il mentalismo, e la storia di queste donne, ed è anche una storia politica, perché fa vedere in che modo ciascuna di loro ha sviluppato mezzi diversi per trovare degli spazi di emancipazione. Uno dei più originali è la protagonista del terzo capitolo, quello ambientato a Lione, Jean Rochette. Stava molto male, soffriva di crisi convulsive violentissime, per cui era stata curata da un magnetizzatore che era anche un massone, e sotto stato di sonnambulismo a un certo punto inizia a vedere delle cose che ricordano molto i racconti della medium dei Clinton, che si chiama Rosemary Altea. Perché dice di vedere l'aldilà, eccetera. Questi la prendono sul serio e gli viene un'idea. Cioè, altro che vedere i tumori o i calcoli nello stomaco. Vuoi vedere che il sonnambulismo diventa uno strumento di visione dell'aldilà? Noi abbiamo la possibilità, in modo scientifico, di mappare purgatorio, paradiso e inferno. Bisogna usare chiaramente un apparato di visione, che è un essere umano, poverissima lei, che chiamiamo tutti i giorni, tutte le sere a casa nostra, e quindi c'era uno che era incaricato di trascrivere le sue visioni. E lei è straordinaria, perché quando capisce il potere che ha di tenere per il collo costoro che pendono dalle sue labbra, ha un delivery dei suoi racconti paragonabile a qualcuno che sta proponendo una serie TV e fa il pitch. Per cui dice: guarda, io in mente la storia di un aereo che precipita su un'isola, che però magicamente la gente si risveglia, eccetera, devono capire perché sono lì, non ti dico oltre, però mi devi finanziare almeno la prima stagione. Va bene, ti finanzio la prima stagione. Allora, lei doveva raccontare, e al culmine della serata, cliffhanger, sospensione, sono svegliata, scusate, domani, e questi la dovevano reinvitare. Questa per 2 anni viene invitata, e poi ci sono, le rivelazioni sono meravigliose, perché a posteriori, capendo il modo in cui lei aveva capovolto completamente la dinamica di potere, lei, una poverissima, in mezzo a questo circolo di massoni che prendevano conto di ogni parola, spiriti, ho capito bene, volete che da domani mi vengano a prendere in carrozza e non a piedi? Perfetto, glielo riferirò a questi che scrivono. Spiriti, mi devono pagare gli studi, perché così le mie rivelazioni saranno più precise, utilizzeranno i termini più, eccetera. Mi hanno detto che dovete pagarmi gli studi, e questa si è guadagnata tutta una serie di cose semplicemente perché ha capito il meccanismo e lo ha cavalcato. Fino al momento più grave di tutti, che è quello in cui lei non ne può più di quella situazione, dice: ormai ho ottenuto abbastanza. Senza dirlo, si era fidanzata col capo di questa congrega ed era pronta a sposarlo, e quindi aveva risolto il suo problema, e dice: spiriti, come mi sa, cioè da domani non ho più bisogno di loro per entrare in stato di sonnambulismo e posso aprirmi da sola il terzo occhio, e ringrazio questi ammutoliti bianchi. E nel libro la paragono all'introduzione del vibratore, cioè improvvisamente le donne hanno uno strumento con cui raggiungere l'orgasmo senza la bacchetta magica che noi uomini utilizziamo per produrre quello stato che è il non plus ultra, eccetera. Per i maschi è una notizia sconvolgente, perché e quindi bisogna ridistribuire i poteri, e anche la sessualità e tutto va redistribuito. La notizia è così scioccante per questo gruppo di massoni che il suo nome viene cancellato con grosse righe da tutti i registri, e a Lione, nella biblioteca La Pardieu di fronte alla stazione, bellissima, con dei microfilm che ti puoi scaricare sulla chiavetta USB, una tecnologia magnifica, puoi sfogliarli e non c'è mai il suo nome, per cui scoprire il suo nome devi cercarlo altrove, perché arrabbiatissimi dannazio memoria, la cancellano dai quaderni. Però si chiamava Jean Rochette, lo possiamo dire a gran voce, è quella che si emancipa dagli uomini così tanto da dire: da domani faccio da sola, che è una notizia. Poi in realtà, appunto, faccio da sola, si è poi sposata 2 giorni dopo, quindi in realtà non era faccio meno degli uomini, era forse va un po' redistribuito il potere. E sono storie che parlano ancora all'oggi, perché diciamo che la gerarchia non si è completamente stravolta. Oggi assistiamo, se ci guardiamo intorno, in particolare nei circoli di magia, poi il ruolo delle donne continua a essere abbastanza, e trovare donne che non hanno accettato ma hanno fatto hacking di questa cosa, l'ho trovato particolarmente emozionante da raccontare. Un'altra cosa che appunto ha degli echi poi anche un secolo dopo e oltre è quella dei premi, no? Sapete che James Randi, per esempio, aveva messo in palio un premio arrivato a $1,000,000 per la prima persona che avesse dimostrato una qualunque facoltà paranormale in condizioni di controllo. Prima di lui, Houdini aveva messo in palio $10,000 Nel suo caso lui diceva, per il primo medium che fa qualcosa che io non riesco a replicare, che era un'affermazione rischiosa. Ma prima ancora c'erano stati altri premi, tu ne hai trovato uno in particolare che racconti. Sì, perché quella che fa più tenerezza delle sei protagoniste è una bambina di 12 anni di Montpellier, si chiama Léonide Piger, in italiano era stata tradotta come Leonilda, e Leonilda leggeva bendata, e a magnetizzarlo non era papà ma la mamma, e quindi era questa liaison tra mamma e figlia, che quando scoprono che a Parigi era stato indetto un premio da questo Charles Bourdin dell'Accademia di Medicina di 3.000 franchi, si candida e dice: io vengo e voglio vincere il premio, perché il premio era per chiunque avesse dimostrato di poter leggere con una benda sugli occhi. Io ho trovato il libro che viene utilizzato nella prima seduta parigina dietro il Musée d'Orsay, quando non c'era ancora il Musée d'Orsay, in Rue de l'Université al numero 21, perché la descrizione e il rapporto di chi era presente a questa lettura di lei bendata è talmente preciso che si può ritrovare il libro e la pagina giusta, e in effetti, come mi aspettavo, era un libro che stava nel taschino, era questo. Questo era un libro di poesie di Malherbe, aperto a pagina 110, non era ovviamente questo, potrebbe, ma non... sarebbe molta, un gran colpo di fortuna se fosse davvero lui. Ha aperto questa pagina, lei, come funzionava? I libri all'epoca erano molto sbalzati, perché le presse tipografiche non lasciavano delle impressioni troppo lisce, si notava lo sbalzo, per cui il sospetto della commissione scientifica era che lei fosse molto allenata con le dita, e quindi veniva appoggiato un vetro trasparente sopra. Litigio tra la famiglia Piger e i giudici era che lei era in grado di leggere soltanto con la pagina illuminata, che è lo stesso limite che si ha con gli occhi, per cui come mai? Quindi si può coprire, ma con un vetro. Allora i giudici dicono: ma perché questa strana benda? Mettiamo semplicemente un collare tipo quello che si mette ai cani che vengono operati, in cui lei sia dentro questo cono, sotto ci può mettere qualunque cosa, se è opaco. No, ci vuole la benda di sua mamma, quella che fa sua mamma. E quindi riporto anche nel libro le immagini delle bende precise della mamma. C'è stato un braccio di ferro incredibile tra la bambina e la commissione, non dico come va a finire, se no spoileriamo troppo, ma è affascinantissimo che questa bambina sia partita da Montpellier, quindi dal mare, abbia attraversato la Francia e abbia messo in scacco la comunità scientifica per un buon annetto. E ci sono tantissime testimonianze di persone che sono andate a vederla. Funzionavano benissimo in casa sua queste cose. Davanti agli scienziati improvvisamente queste cose perdevano un po' di concretezza, perché appena si applicavano dei metodi un po' più stretti lei si lamentava, che le dava fastidio, ed è affascinantissimo perché di solito queste personaggi non hanno voce, sono sempre dei maschi che sovradeterminandole le raccontano eccetera, e qui invece, un po' perché era la mamma che la magnetizzava, un po' perché questa bambina a un certo punto si lamentava e parlava e si lamentava, ci sono le parole di lamentela di una bambina di 12 anni che doveva trovare il modo per guardare, utilizzare. Faccio una confessione, io credo che barasse, perché invece c'è un sociologo francese contemporaneo, si chiama Bertrand Meust, convinto che lei fosse autentica. Quindi anche questo non sono casi così cristallini da poter dire c'è la prova del 9, che diciamo che tutto il materiale che ho raccolto mi ha convinto che lei barasse. E quindi l'epica di questo racconto è in che modo una bambina di 12 anni riesce sempre a sgattaiolare, a trovare una via di... È una storia molto affascinante, che qualcuno doveva raccontare. Io mi sono dato questa regola, poiché io volevo presentarlo qui e devo presentarlo dei colleghi, e tra gli illusionisti è difficile stupirsi, perché chi è del ramo più o meno ha la mente allenata. Mi sono detto: per stupire i miei colleghi e le mie colleghe devo trovare storie che non abbiano mai sentito prima. E una regola comoda è: se c'è su Wikipedia non te ne occupi. Quindi qualunque storia io abbia trovato su Wikipedia è uscita dal catalogo delle storie raccontabili. Quindi sono sei personaggi che non, finché è uscito il libro, non si trovavano su Wikipedia. Adesso. Sospetto che, spero che qualche lettrice o lettore ce le porterà, perché come può non esserci questa storia? Naturalmente la controparte, bisogna farsi un mazzo pazzesco per andarle a recuperare sulla Gazzetta Piemontese del 52, perché appunto non sono ancora mappate, ma adesso iniziano a esserlo, e sono convinto che potrebbe addirittura diventare o un podcast o un documentario itinerante, perché uno ripercorrendo lo stesso tragitto e seguendo il mio viaggio, perché io arrivo nel posto, alzo gli occhi e indico dietro quella finestra nel 1000, oggi invece c'è un supermercato, e può diventare il copione di un documentario on the road, può diventare un podcast se qualcuna o qualcuno fosse, si innamorasse di queste storie potrebbe, non ho il copyright su niente, sono storie che appartengono a tutte e tutti, e se illuminano qualcuno sono felicissimo di condividerle. Secondo me, se lei e io facciamo un podcast su di loro, racconteremo storie diverse e faremo vedere come sono prismi che, interagendo con le nostre esperienze personali, il nostro immaginario, eccetera, possono far vedere cose diverse. Una cosa interessante, appunto, citavi il caso di Leonid, ed è uno di quelli che abbiamo voluto raccontare, citare, prendere come esempio in un corso di mentalismo che abbiamo creato noi due online, per cui è un corso che si può seguire online e che è seguito proprio la tua regola, cioè del proporre soprattutto storie, illusioni, magie che non fossero quelle che tutti quanti conoscono, no? E quindi di proporre un percorso diverso, partendo dalla storia, fa vedere come si possono e si sono evoluti alcuni effetti più straordinari, e quindi è davvero qualcosa di fuori dal comune. Se poi qualcuno è interessato, ci faccia sapere, vediamo tutti i riferimenti. Arrivando un po' invece alla conclusione, anzi, prima volevo dire una cosa: che tu, come hai accennato prima, questo libro non ti è bastato, ne hai voluto fare un altro che integrava tutto il materiale che tu avevi trovato e che volevi metterlo a disposizione dei lettori. Quindi sono due libri che si parlano, che si integrano a vicende, che quindi il dossier, come l'hai chiamato, è davvero arricchisce molto di più per chi vuole andare a fondo, come fai nei tuoi altri due libri sulla storia del mentalismo. C'è l'indice dei nomi, quindi se uno vuole trovare, tutte le volte che parlo di Roll parlo tantissimo, ma ovviamente essendo maschio non è il protagonista, una volta tanto non è il protagonista, ma confrontare il destino di Roll, che lavorava con i potenti come Carlotta Cerrino e viene sgamato, e confrontare il destino che invece ha subito Carlotta, che non vi racconto ma è terrificante, fa vedere in che modo la stessa truffa, se arriva dal basso, arriva dall'alto, ha dei trattamenti sociali molto diversi, il che fa montare la carogna. Infatti io poi riesco a risolverla a modo mio, voglio anticiparlo. L'unica parolaccia che c'è nel libro la spendo in quel capitolo. E dicevo, allora, magari prima di aprire alle domande, se ci sono, del nostro pubblico, volevo chiederti se fai tu adesso il ruolo del veggente, del sonnambulo, e ci dici che futuro vedi per il mentalismo, dopo averne studiato il passato, quale può essere la strada futura. Parto da una di loro, che è Prudence Bernard, quella di cui abbiamo parlato prima, di cui vi ho fatto vedere l'immagine, è la prima che ha fatto uno spettacolo a Torino, al Vauxhall. Nessuno sa dove è il Vauxhall è sparito completamente da tutti i libri sul teatro torinese, perché è stato aperto solo per 3 anni. Era un interno cortile, una trattoria che aveva anche uno spazio da ballo, dove si facevano degli spettacoli un po' off, in via della Rocca. Oggi se andate lì è rimasto murato l'ingresso. Il vero e proprio spazio dove c'erano gli spettacoli è un garage, dove però il mentalismo è arrivato in Italia, per cui il contrasto è notevolissimo. Io ho trovato tutti gli annunci dell'epoca, cercavano un barista, affittavano le sale, gli annunci degli spettacoli, questo Vauxhall, che aveva questo nome super antisonante. Lei si è esibita lì per prima, la Sibilla Moderna qualche anno dopo si è esibita lì, Francesco Guidi da Milano si è esibito lì, poi ha chiuso, ha cambiato prima nome. E scavando nella storia di questo teatro saltano fuori evidentemente l'interesse di questo impresario per il mentalismo. Appena torna a Parigi, Prudence trova sui giornali questa notizia assurda, per introdurvi la quale, per parlare del futuro del mentalismo, vi faccio vedere un oggetto piuttosto strano. Voi avete mai visto questa lumaca telefono? Vediamo se qualcuno... Eccolo, qualcuno l'ha vista? Tu conosci, tu hai una 30ina d'anni, vero? Sì. È una roba da 30enni, cioè oltre o più giovani. Che cos'è? È un sistema di comunicazione del mondo di One Piece. Di One Piece, questo è un sistema di comunicazione utilizzato dentro questo manga anime giapponese chiamato One Piece. Si utilizzano delle lumache che quindi per squillare ti fanno badabada, badabada, e poi c'è il telefono, qui si prende e le lumache vengono usate come telefono. E voi dite, perché ci fai vedere questa cosa di un manga degli anni 90 e ci hai appena parlato di Prudence Bernard? Perché nel 1850 a Parigi un tizio chiamato Benoit annuncia in una conferenza stampa di aver trovato la trasmissione di messaggi a distanza non più con i fili ma wireless. Basta col telegrafo, scomodissimo, bisogna tirare i fili, siamo nel wireless. Io utilizzo delle lumache, prendo una coppia di lumache, le faccio copulare, fatto l'amore le separo e sulle due scrivo A, poi ne prendo altre due, le faccio copulare, le allontano, scrivo B su entrambe, creando quindi dei legami di natura erotico magnetico, per cui lo scambio di fluidi che c'è tra le due crea un legame indistruttibile tra le A, tra le B, tra le C. Una volta fatte coniugare 21 coppie di lumache, prendo due cerchi di legno, ciascuno con 21 alloggiamenti, uno per lettera d'alfabeto, una a destra e una a sinistra, nella A di due metto una coppia, nella B eccetera, creando due ruote composte ognuna da 21 lumache, ciascuna con la sorella di là con cui ha accompagna, diciamo. E cosa succede? Lui scopre che accarezzando il dorso della A, la corrispondente, dopo essere entrata in intimità con lei, rizza le antenne, sente a distanza questa sensazione. E lui dice: questo è un comodissimo telegrafo, perché se voglio trasmettere la parola je t'aime, J, eccetera, e posso, come si fa dall'aldilà, come si farà dall'aldilà più tardi, una lettera alla volta si può comunicare. Lo chiama sistema telegrafico escargotico, perché l'escargot è... e lo presenta in una stanza davanti ai giornalisti, non facendolo da qui all'America, ma dicendo: se ne portiamo uno in America e l'altra è a Parigi, potremo comunicare a tempo zero, perché è immediata la... è una commissione istantanea e escargotica, e lo fa da una stanza all'altra, fa vedere che si può mandare la parola gymnase, è la prima parola che viene spedita da una stanza all'altra con un piccolo errore, ma che viene perdonato. Sui giornali questa cosa esce come la scoperta del secolo, sono pronti a dargli dei soldi eccetera. Lui, quando ha il finanziamento per farla in serie, tra l'altro aveva anticipato lo smartwatch, perché in questo articolo dice: nel momento in cui trovassimo degli esemplari abbastanza piccoli, noi ci facciamo il quadrante dell'orologio. E pensate, il cellulare ipotizzato nel 1850, altro che Tesla. Questa notizia, non si sa come, arriverà ai produttori di One Piece, che creano queste lumache telefono che pescano da quella storia. Ma chi mai se ne è accorto? Me ne sono accorto io, perché ho visto sto oggetto in un fumetto. Aspetta, ma quella roba lì, quella che... cosa c'entra Prudence? Questo qua praticamente, una volta che hai i soldi, scappa, perché naturalmente era una bufala. Tutta Parigi sta parlando di questa cosa, che è verosimile nello spazio del... potrebbe, cioè la calamita funziona a distanza, chissà che non sia vera. Come si può vedere? Dove l'andiamo a vedere? Lei e il marito dicono: che io e te, diciamo, abbiamo dei rapporti matrimoniali e non è un segreto. Noi annunciamo che in teatro presenteremo dei numeri di telepatia escargotica. Fino a ieri li attribuivamo ad altro, dobbiamo solo cambiare la storia con cui li mettiamo in scena. E quindi, Salon La Seigne, nel passaggio Jouffroy di Parigi, presentiamo tutte le sere, come clou dello spettacolo, la telepatia escargotica. E quindi si poteva vedere questa cosa, orfani di una truffa, col dibattito in corso di come andrà a finire, sarà vero, sarà no. E loro dicevano: venite a vedere, vi fate la vostra idea. Loro facevano mentalismo, ma con questa cornice che all'epoca era credibile, e quindi per un certo periodo a Parigi era possibile vedere due coniugi. Lui vedeva la carta e lei la nominava bendata dall'altra parte, grazie a questa telepatia escargotica. Però la prima volta che ho trovato sull'annuncio di questo spettacolo telepatia escargotica, mi sono detto: che diavolo è? Perché vi parlo di questa cosa, per parlare del futuro? Perché il mentalismo è questo, cioè trucchi, sempre lo stesso. Uno dei trucchi che usavano è un trucco che io utilizzo sempre quando mi chiedono di fare un numero di tradizione del pensiero, risale al 1593, lo spieghiamo nel modulo avanzato del nostro corso, perché poi è anche diviso in due moduli. E quel trucco lì è stato utilizzato con le lumache nel 1850, all'inizio del Novecento si diceva: io sono la radio umana, perché la radio era il paradigma dell'epoca. Poi Uri Geller ho i poteri extrasensoriali. Oggi Derren Brown dice: no, io utilizzo la lettura dei segnali del corpo per capire la stessa cosa. Il trucco sottostante è lo stesso, è sempre lo stesso. Cambia la narrazione con cui viene rivestito, esattamente come sei stufo della skin del tuo telefonino, la togli e la cambi. Hai il telefonino nuovo? No, ci ho solo messo una nuova skin. È esattamente la stessa cosa. Il trucco resta sempre lo stesso, non si cambia mai il telefonino. Cambia la skin e diventa credibile per la nuova generazione. Questo ci consente anche di dire dove sta andando il mentalismo. Domani avremo qualcosa di confine che non sapremo bene quanto è vero, quanto no. Il mentalismo si occuperà di quello. Questa idea che accarezzando una lumaca qui la corrispondente si muova, per chi studia un po' di scienza dice: ma quella roba lì non è una cosa così assurda. L'entanglement quantistico è esattamente quello. I computer quantistici si basano su questo principio, che è stato dimostrato non a livello di lumache ma a livello di spin, elettroni, eccetera. Quindi esiste davvero. Era così folle crederci all'epoca. È difficile rispondere, perché oggi crediamo nell'entanglement e non possiamo escludere che fra un secolo ci sarà qualcuno su questo palco che diranno: pensate che la gente nel 2022 credeva all'entanglement, quando si sarà capito che invece c'è una dimensione che ci sfuggiva, che rendeva tutto più spiegabile, eccetera. Chi ha capito per esempio questa cosa? Alexander, il mentalista torinese, forse uno dei più noti che abbiamo in Italia, ha fatto uno spettacolo qualche anno fa al Teatro Baretti, la cui base era la teoria quantistica, e quindi invitava una spettatrice a scegliere una carta e la leggeva nel pensiero dicendo: tu conosci l'entanglement? L'entanglement è un fenomeno quantistico, e raccontava il vero entanglement, ed era questa la narrativa teatrale con cui presentava il numero che loro presentavano con le lumache, che Geller presentava, eccetera. Quindi diventare grandi mentaliste e mentalisti significa avere sempre la skin più moderna e interessante. Qual è la skin che mi aspetto per il futuro? Butto lì una roba, chissà che riascoltandoci nell'anno 3000 diranno: ah, ci aveva preso, oppure era veramente fuori strada, quindi provo. Le nanotecnologie domani potrebbero imporsi, potrei dire che ho saturato l'aria di microdroni, ognuno costituito da poche molecole, per cui, signora ha scelto una carta, benissimo, allora adesso i microdroni, che lei non può vedere perché sono nanotecnologie, lo vedranno, lasciamo il tempo che... ok, era un 3D cuori, vero? Ecco, mi è arrivata, ma erano i microdroni. Wow! Questi microdroni, ho capito che fanno gli interventi, entrano nelle vene, ma che si potesse leggere nel pensiero, caspita! Infatti è un progettino che costa veramente poco se lo finanziate. Grazie. Magari accendiamo anche un po' la luce in sala, così vediamo anche le persone, noi siamo accecati in questo momento. Quanta gente, era piena la sala. Sì. Oh, ecco che inizia a manifestarsi la platea. Chi alza la mano? Chi ha qualche domanda? Sì. Chi ha una cosa da chiedere, una curiosità? Un segreto. Cosa vuol dire il titolo? Cosa vuol dire il titolo? Cosa vuol dire il titolo, per esempio? Incantagioni non è proprio una parola, è un neologismo mariano. Ho trovato questo ritaglio del 1850 di uno spettacolo presentato a Torino in cui questo artista prometteva fattucchierie, gherminelle e incantagioni. Erano una più bella dell'altra. Usare gherminelle in un libro che parla di sei donne sembrava un vezzeggiativo che le prendeva per il culo, e quindi ho detto: no dai, è bellissima, ma pochi vedranno in gherminella quella mossa segreta che... fattucchierie mi piaceva, incantagioni mi sembrava perfetta, quindi l'editore ha detto: mettiamo un sottotitolo molto lungo, e quindi il sottotitolo è storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni. Ed è contemporaneamente un neologismo, è una parola vecchissima e desueta. E ti do un titolo per il prossimo libro, che quando dicevamo prima di Giacomo Palladino e del direttore del Corriere della Sera, che era rimasto molto poco incantato delle sue dimostrazioni, le aveva definite ciurmerie, come dire, ciarlatanerie, ecco. Bellissimo. Parole perse completamente, chissà quante ce ne sono. Guarda le mentaliste italiane, oggi chi sono, c'è qualche nome tanto per avere così idea di chi sono e se fanno appunto spettacoli per il pubblico a livello appunto di mentalismo? Allora, il libro si ferma alla fine dell'Ottocento, quindi in qualche modo colma una mancanza nell'immaginario. Se voi scrivete, l'ho provato ieri, su Gmail, in una mail, questo libro parla di una mentalista, te lo corregge, dice: no, devi mettere un, perché è inconcepibile per Google che esista una mentalista, ti fa il segnetto sotto. Questo semplicemente perché il correttore automatico di Google viene educato leggendo tutti i testi disponibili in giro e non si è mai parlato di una mentalista. Quindi un obiettivo era allargare l'immaginario, far immaginare che esista questa cosa. Esistono delle artiste, faccio il caso di Silvia Lollino, che è stata quella trasmissione che si chiama non è il collegio, sì. Voglio essere un mago, o la O naturalmente, la povera Silvia vuole essere un mago, e bastava dire voglio essere un illusionista, con l'apostrofo che si farfallava con neon, e sarebbe stato meraviglioso. Però appunto bisogna allargarlo l'immaginario, bisogna forzarlo. E lei, per come saggio finale davanti a Silva, fa un numero di mentalismo, così originale che l'abbiamo usato qui al circolo come modulo didattico. La sfida era risolverlo e l'abbiamo analizzato. C'è anche Paolo che lo ha risolto e Silvia era il brodo di Giugio, che wow, 20 anni, era giovanissima e in questo momento ha il camp magico a Kanazei, che lei è una cartomaga, ma quel numero è un numero di mentalismo, quindi bisogna lasciare dire loro che lo spazio c'è, in realtà se lo prenderanno, figurati se anche glielo diciamo noi, però anche solo immaginare che esista, dobbiamo iniziare a parlarne, e usando una mentalista Google lo abbraccerà come possibile, fino ad allora dirà che è sbagliato, non perché lo sia, ma perché è l'immaginario che va un po' forzato. Grazie. Faccio io una domanda, mentre... Paola, una domanda. Una domanda che invece ti volevo fare io. Siamo arrivati a metà 800 neanche? Sì. Sì, più o meno metà 800. Quanti altri libri ci saranno per arrivare a oggi nella tua ricostruzione? Allora, mi piace quello che ha fatto Lucas, George Lucas, che dopo aver coperto gli episodi primo, secondo e terzo, va indietro e riparte. Perché mi sono accorto, partendo dal 700, che il Medioevo, delle robe interessanti c'erano, e poi il 500 e il 600. Quindi mi piace pensare che i prequel sono potenzialmente interessantissimi, e poi naturalmente i sequel porteranno i giorni nostri, e quindi l'impresa di Star Wars mi dice che del però, mentalismo... Per altri 40 anni... Ne ho da divertirmi. E noi invece... Io, se volete, i titoli di coda. Abbiamo parlato di cinque, sono riuscito a nominarne cinque delle personaggi, non mi ho nominato l'ultima. Io sono cresciuto negli anni 80 con il Commodore 64, primi videogiochi, quindi ho quell'immaginario lì. La mia mente si è plasmata a livelli, quindi come funzionano i videogiochi. Inizi che livello 1 è un po' difficile, impari quel personaggio a superare delle prove. Poi il secondo livello ti dà altre prove, tu devi migliorare perché le sfide sono nuove. Un videogioco interessante è quello che ogni livello ti dà delle sfide nuove, e poi nel livello finale hai il super boss, il super mostro, che di solito unisce i componenti dei mostri che avevi eliminato prima, e lì devi dar prova che quei 5 metodi che avevi appreso sei in grado di applicare tutti insieme, perché per ammazzare il boss finale è un pasticcio. Questo libro è diviso in 6 capitoli che hanno la stessa struttura, perché la mia mente funziona così, non perché l'abbia pensato. Cioè, io ragionando a livelli ho raccontato la storia di 5 personaggi, ognuna ha dovuto affrontare problemi diversi. La cuoca era povera, voleva arrivare lì. La Sibilla aveva un marito che le rompeva l'anima e doveva liberarsene, trova un modo per evitare il processo, eccetera. Ognuna aveva qualcosa da superare, e l'immagino come i 5 livelli. Il 6° livello è d'angoscia totale, è l'incubo, perché l'ultima si trova ad affrontare la prova suprema. Suo padre era l'impresario della donna invisibile. Voi entravate in questa stanza di Parigi, vi trovavate davanti a una sfera di vetro trasparente, e lui diceva di aver reso la moglie invisibile, chiusa nella sfera, e voi potevate interagire con lei facendole delle domande, e se io mi fossi presentato, come sono vestito, da dentro la sfera c'era un cornetto, 4 cornetti acustici che uscivano, usciva la voce della donna che diceva: hai una camicia scura e le maniche corte, e sotto i jeans. Era chiaro che c'era, ma era invisibile. E questa attrazione della donna invisibile andava avanti per un pezzo. Il trucco era terrificante, perché la donna era chiusa in un armadio a muro per giornate intere, doveva sbirciare quello che succedeva da un piccolo buchetto, parlare in un tubo. Il tubo portava la voce sotto il pavimento e la faceva spuntare da una transenna di legno che era messa lì per evitare di avvicinarsi alla sfera, che in realtà era quella che portava il suono. E questo mistero è rimasto tale a lungo, e questa poveretta viveva lì dentro, cioè viveva, passava giornate intere, immaginate i giorni del ciclo, cioè noi uomini non viene in mente, ma ti scappa la pipì e stai lì, non puoi tossire, non puoi, perché non dovevi rivelare la tua presenza. Era già abbastanza pesante lì la vita di costei. Ho scoperto come si chiamava, eccetera, come si chiamava il marito, che invece era ben noto. La figlia di quest'uomo un giorno si sveglia e si trova in manicomio, e scopre di essere diventata invisibile, non tanto come la madre, che era invisibile perché l'uomo ricevesse applausi. Diventa invisibile agli occhi della famiglia, perché viene dichiarata morta agli occhi di tutti, nessuno più la cerca. Fa una via crucis di 6 diversi ospedali psichiatrici in tutta la Francia, dove io sono andato per recuperare tutte le informazioni che riguardavano lei, e si trova in questo incubo totale, perché sparisce, ma sparisce da non poter... E lei in realtà era una pianista molto brava, che faceva corsi di... insegnava piano, faceva concerti, scriveva musica, e lei provava a dire al direttore: cerchi su Google, sono... ma nel 1800 Google non c'era ancora, bisognava avere voglia di andare a cercare i suoi spartiti, e il direttore aveva altro da pensare che ascoltare una delle tante voci di folli, e quindi c'era questa impossibilità da parte di Costei di dire: guardate, io non ho fatto niente, sono normale, non sono folle. E naturalmente immaginate i manicomi dell'Ottocento, basta leggere Foucault per vedere che cosa succedeva. E Costei passerà anni per urlare la sua innocenza, non vi dico come va a finire, è una storia, è la più difficile di tutte, perché lei deve far appello ai trucchi che il padre usava da illusionista, perché il padre era un prestigiatore, per uscire da un manicomio. Cioè, è un gioco di prestigio impazzito, perché non è più una cassa da cui poi la sera si esce e si va a casa. Lei era invisibile davvero. E questo gioco di prestigio impazzito, la prima volta che l'ho letto, mi ha talmente sconvolto che sono andato a Orléans, dove c'era questo l'ultimo dei sei manicomi della serie, per poi come andrà a finire non ve lo anticipo. Ma io, a differenza del direttore, sapendo poi che lei era finita lì non tanto per un errore, ma perché una persona l'aveva voluta lì, l'esito è angosciantissimo, trovo uno spartito di uno dei suoi pezzi, trovo la sua canzone, trovo una recensione in cui dicono: Costei faceva spettacoli e offriva a volte delle serate gratis, perché riteneva che la musica dovesse essere accessibile a tutti, anche al popolo. Era completamente fuori per cui la gratuità era considerata follia. Trovato lo spartito, cosa ho detto? Come minimo il pubblico. Quindi qua c'è lo spartito di Ersilia, nata a Milano, tra l'altro, perché papà è Ventura a Milano, e quindi altra cosa affascinante, c'è una storia anche con... abitavo in Piazza Cordusio, ho pubblicato lo spartito con la sua canzone Cour de Memoir, e poi, visto che non sono un accademico ma un nerd totale, mi dico: ma un accademico dovrebbe mantenere un contegno, invece uno come me può fare spettacolo, facciamola suonare. Mio papà suona il piano, quindi ho detto: ah, me la suoni? Mi si è messo, se l'è studiata, l'ha suonata. E poi ho chiesto alla mia amica Alice, che canta musica da camera: ma senti, se ti mando gli MP3 mi ci canti sopra? E abbiamo restituito la voce a una donna a cui era stato tolto tutto, soprattutto la sua identità di pianista, chiusa in un ospedale psichiatrico per anni e anni e anni, che urlava: ma io sono una cantante, oggi, se volete, possiamo chiudere la serata con un pezzo di Ersilì. E immaginate, quando io ho ricevuto questo MP3 per la prima volta, ho sentito questa voce, mi sembrava la voce che dall'Ottocento mi aveva raggiunto e aveva ritrovato una voce. Leggendo il libro leggerete le parole di costoro, qui invece adesso sentirete la voce, parole e musica di Ersilì Ruy. Tengo il microfono qua. Qui tutte le persone che hanno passato questo sabato sera in nostra compagnia, non era ovvio, e adesso chi vuole il libro potrà farselo firmare, saranno in vendita qui sul lato. Grazie. Grazie.